altre nozioni fondamentali. Cos'è la famiglia nell'Islam? La famiglia è il nucleo fondamentale della comunità islamica e si basa sul matrimonio, che è un contratto stipulato secondo il libro di Allah l'Altissimo e la Sunna dell'Apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria. I due contraenti devono essere maggiorenni e capaci, e lo scambio delle dichiarazioni contrattuali deve avvenire alla presenza di due testimoni. Oltre alla capacità di intendere e di volere, la maggiore età e la presenza dei testimoni, quali sono gli altri elementi essenziali del contratto? Oltre alla capacità di intendere e di volere e la maggiore età e la presenza dei testimoni, altri elementi essenziali del contratto per la sua validità sono: 1. Il consenso del padre o di chi ne fa le veci della sposa. 2. La stipulazione di un dono sponsale, la parola araba è al-mahr oppure as-sudaq, di cui il marito deve versare un acconto all'atto del matrimonio. Perché la donna musulmana sposa soltanto un musulmano e un musulmano può sposare una donna cristiana o ebrea? La donna musulmana può sposare soltanto un uomo musulmano perché in una casa musulmana non ci sono statuette, quadri, bevande alcoliche, carne di maiale. È una regola posta a tutela della dignità della donna musulmana. L'uomo musulmano può sposare una donna della gente del libro in quanto nella sua casa vengono rispettate le regole dell'Islam, che sono anche le regole della vita pratica della religione autentica della gente del libro. Cosa sai dirmi della poligamia? La famiglia islamica è essenzialmente monogamica, ma in particolari circostanze e subordinatamente al rispetto di precise condizioni è presente nell'ordinamento islamico l'istituto della poligamia, in virtù del quale l'uomo musulmano può avere fino a un massimo di 4 mogli. La funzione della poligamia è essenzialmente previdenziale e assistenziale in favore di orfani e vedove e comunque è condizionata al rispetto della parità di trattamento delle mogli da parte del marito. Funzione della famiglia e ruoli dei coniugi. Nell'ordine islamico la famiglia è il luogo di trasmissione della vita e della religione e in essa c'è una divisione dei ruoli ben precisa tra il marito e la moglie. La moglie ha un ruolo normalmente riproduttivo e domestico, mentre il marito ha un ruolo alimentare e pubblico, essendo la sua funzione essenziale quella di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli. Ambedue i coniugi sono sullo stesso piano di valore umano e di dignità, poiché il ruolo di ciascuno è complementare a quello dell'altro. Il marito è il capo famiglia ed esercita la patria potestà sulla moglie e sui figli. Questa struttura è finalizzata al buon funzionamento della famiglia. Infatti, dalle famiglie che funzionano bene escono individui equilibrati che danno vita a una società sana ed equilibrata. Qual è il rimedio al fallimento del matrimonio? Se la famiglia non funziona, è apprestato il rimedio del divorzio, che, benché lecito, è la situazione più odiosa ad Allah l'Altissimo. Il divorzio può avvenire per iniziativa del marito, può compiersi anche per iniziativa della moglie quando vengono in essere situazioni che rendono islamicamente invivibile il rapporto coniugale e sono pregiudizievoli per un'equilibrata crescita psicoemotiva dei figli. Maltrattamenti, inadempimento degli obblighi religiosi, come l'abbandono della preghiera, vita sregolata, come frequentazione di discoteche, ubriachezze, uso di droghe, eccetera. La legge islamica fissa i casi e le modalità di scioglimento del vincolo matrimoniale e ne condiziona l'attuazione all'esecuzione di un tentativo di conciliazione tra i coniugi, ordinato da Allah, sia gloria a Lui Altissimo, nel sublime Corano. Cosa sai dire in breve a proposito delle pratiche islamiche relative al trattamento della salma del musulmano defunto? Quando il musulmano muore, la sua salma viene lavata accuratamente, poi viene avvolta in un sudario con 3 lenzuoli senza cuciture. Non appena il decesso viene accertato, il funerale e la sepoltura devono essere eseguiti tempestivamente. Uno dei doveri del musulmano è quello di accompagnare un musulmano defunto all'ultima dimora. L'elogio funebre sperticato e le scene di disperazione sono vietate dall'Islam. Quando il funerale giunge al cimitero, viene eseguita la preghiera del defunto, nella quale non ci sono prosternazioni. In terra d'Islam, la salma viene inumata nella nuda terra sul fianco destro e con il viso rivolto in direzione della Mecca. Nell'Islam non ci sono esumazioni, perché il musulmano uscirà dalla tomba solo nel giorno della resurrezione. La sepoltura islamica è perpetua. Quali sono i nomi che il musulmano deve dare ai propri figli? I nomi che il musulmano deve dare ai propri figli deve essere un nome che appartiene all'onomastica islamica. Preferibili sono i nomi teofori, cioè quelli composti dalla parola abd, che significa servo, e da uno dei 99 nomi di Allah, al-asma'ul husna. Esempi: Abdullah, il servo di Allah; Abdurrahman, il servo del misericordioso; Abdurrahim, il servo del clementissimo. Poi il nome del profeta Muhammad, che è certamente il nome più diffuso sulla faccia della terra. Poi anche i nomi che derivano dal verbo lodare, hamida, come Ahmad, Mahmud. Poi i nomi dei profeti e degli apostoli ricordati da Allah l'Altissimo nel sublime Corano. Esempio: Ismail, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Yahya, Yunus, Zaccaria. Sono anche consigliati e consigliabili i nomi dei compagni del profeta, che Allah si compiaccia di loro: Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, i quattro califi ben guidati, Bilal, Salman, Shuaib, i nomi dei due nipoti del profeta, che Allah lo benedica e lo ben gloria, figli di Ali e di Fatima, la figlia del profeta, che Allah si compiaccia di lei, Hassan e Hussein, che Allah si compiaccia di loro. Pregevoli sono anche nomi composti con la parola din, religione. Più famoso in assoluto in Occidente è Salahuddin, italianizzato in Saladino, che significa la bontà della religione. Altri sono Nuruddin, la luce della religione, italianizzato in Norandino; Alauddin, la nobiltà della religione, italianizzato in Aladino; Nasruddin, il sostegno della religione, e altri. Per le donne, nomi femminili più diffusi sono Khadija, Fatima, Aisha, Zainab, Asia, Sumaya, Amina, Halima, Ruqaya, Sara, Sarra, Asma, Tasnim, Salsabil, Iman, Sana, Rahma. È usanza chiamare un musulmano con l'espressione padre di più il nome del figlio: Abu Ali, il padre di Ali; Abu Bilal, il padre di Bilal. La madre musulmana viene chiamata anche con l'espressione la madre di più il nome del figlio, per esempio Abdurrahman, la madre di Abdurrahman; Bilal, la madre di Bilal; Yunus, la madre di Yunus. Il musulmano può anche essere chiamato con l'espressione figlio di più il nome del padre: Bin Isa, il figlio di Isa; Bin Ali, il figlio di Ali. Quali sono le regole del regime alimentare nell'Islam? Il regime alimentare islamico si fonda sui precetti e sui divieti contenuti nel sublime Corano e nella nobile Sunna. Poiché la salute dell'uomo è un bene di cui bisogna rendere conto nel giorno del giudizio, l'uomo ha il dovere di alimentarsi con cibi e bevande che non siano nocivi alla salute. È permesso il consumo di vegetali e di pesci, mentre è proibito il consumo di anfibi, carnivori, rapaci, suini domestici e selvatici, porco, cinghiale, e derivati dalla loro macellazione, sangue, carne di animali macellati con modalità diverse da quelle della macellazione islamica, o morti per malattia o per sbranamento. Sono proibite inoltre tutte le sostanze solide o liquide che producono alterazione dello stato di coscienza, anche in piccole dosi. Sono quindi proibite le droghe e le bevande alcoliche per le devastanti loro conseguenze sia sulla salute di chi le consuma sia sulle relazioni sociali. Come avviene la macellazione islamica? La macellazione islamica al-Zabah consiste nella recisione delle canne e dei grandi vasi scannamento della gola della bestia, eseguita con una lama affilatissima pronunciando la frase Bismillahi Allahu Akbar. Per il musulmano è lecito il consumo alimentare di carne solo se essa proviene da bestia tra quelle di cui è lecito mangiare la carne, che sia stata macellata secondo il rito islamico. Quali sono le norme di abbigliamento maschile e femminile nell'Islam? Il codice di abbigliamento islamico contiene regole per il modo di vestire dell'uomo e per il modo di vestire della donna. La regola fondamentale dell'abbigliamento maschile è quella che stabilisce per l'uomo il dovere di coprire almeno le parti anatomiche del suo corpo che si trovano tra la zona superiore del ventre e i polpacci, cioè da sopra l'ombelico a sotto le ginocchia. La regola fondamentale dell'abbigliamento femminile è quella che stabilisce per la donna il dovere di coprire tutto il corpo, fatta eccezione per il viso e le mani, quando si trova in pubblico, cioè in ambiente in cui ci siano estranei a quei membri della famiglia con cui è vietato il matrimonio. Il vestito deve essere ampio e confezionato con tessuto in trasparente. La chioma femminile, che è uno degli elementi più seducenti del sex appeal, deve essere rigorosamente celata alla vista di estranei. Hijab, khimar, chador sono nomi che indicano il velo della donna islamica. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.